Focus Economia. Le 17:07 minuti, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia di 27 luglio. È una giornata positiva in borsa, borse confortate dall'andamento delle banche. Ci sono stati risultati positivi di Deutsche Bank e di UBS, le banche hanno spinto al rialzo tutti i listini, in particolare l'Italia. Il FTSE All Share guadagna l'1,45% in questo momento, il FTSE MIB l'1,62%. Per darvi un'idea, Unicredit, che è il titolo migliore sul FTSE MIB, in questo momento guadagna il 5,74%. Sul fronte della borsa, come sempre, torneremo più avanti. Ci sono naturalmente oggi alcune trimestrali, e sì, c'è anche, e così rispondiamo un SMS che è già arrivato al 349-238-6666, sì, c'è anche quella di Saipem, che in realtà in questo momento non sta proprio brillando, guadagna lo 0,22%. Parleremo naturalmente di Fiat, come già si accennava nel giornale radio, dopo la costituzione della NewCo, ossia di questa nuova compagnia che dovrebbe poi riassorbire i lavoratori di Pomigliano, notizia anticipata da Radio Cori, Il Sole 24 Ore, poi ripresa da tutti gli altri media, e poi parleremo del mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. Poi in realtà lo faremo praticamente in apertura e toccheremo anche il tema del nucleare. Le notizie in breve di questa giornata. Iniziamo dalle materie prime. Il petrolio ha aperto in rialzo a New York di un più 0,8% a $79,61. Per quanto riguarda l'oro, invece, c'è stata una decisa frenata. Al mercato di Londra le quotazioni sono scese ai minimi dal 21 maggio scorso a $1,173,85 l'oncia. Si diceva del petrolio, parliamo di una compagnia petrolifera, ossia British Petroleum. La marea nera ha colpito pesantemente i conti dell'azienda, e questo ce lo si aspettava. Nel secondo trimestre il colosso petrolifero ha registrato una perdita netta record di $17,2 miliardi, a fronte di un utile di 4,39 messo a segno nello stesso periodo dello scorso anno. Tra l'altro è stato confermato dalla compagnia che Tony Hayward, molto criticato per la gestione del disastro appunto nel Golfo del Messico, che era il capo di BP, lascerà il suo incarico ad ottobre. Ha aggiunto British Petroleum che il suo posto verrà preso dall'americano Bob Dudley, che finora ha gestito proprio le operazioni nel Golfo del Messico, il quale ha detto che dopo la marea nera il colosso britannico dovrà cambiare cultura. E però nel frattempo a Tony Hayward arriva un indennizzo per mancato preavviso da 1,045 milioni di sterline, pari a poco più di 1,24 milioni di euro. A proposito di stipendi dei manager, c'è il Wall Street Journal che si è esercitato a calcolare quali sono stati i manager più pagati dell'ultimo decennio. Il primo di tutti è Larry Ellison, fondatore e amministratore delegato di Oracle. Ha ricevuto compensi negli ultimi 10 anni per $1,84 miliardi. Al secondo posto Barry Miller, che ha incassato $1,14 miliardi da Yak Interactive e Expedia, il sito di viaggio online di Yak, ha effettuato lo spin-off nel 2005. E poi Ray Irani, amministratore delegato di Occidental Petroleum, con $857 milioni. E poi quarto posto per Steve Jobs di Apple, $749 milioni. Il numero uno di Capital One Financial, Richard Fairbank, con $659 milioni. I dati americani di oggi: l'indice case Schiller, indicatore dei prezzi nelle principali 20 città americane, è salito in maggio del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, incremento maggiore dall'agosto 2006. Male invece la fiducia dei consumatori, scesa a 50,4 punti in luglio dai 54,3 di giugno, il livello più basso degli ultimi 5 mesi, e in effetti l'America non va proprio bene adesso. Il Dow Jones cede lo 0,17%, il Nasdaq mezzo punto percentuale. Si diceva degli utili delle banche. Nel secondo trimestre dell'anno Deutsche Bank ha registrato un utile netto di 1,2 miliardi di euro, in progresso del 9% rispetto all'1,1 dello stesso periodo del 2009. Si tratta di un risultato migliore delle stime degli analisti. Per quanto riguarda UBS, invece, anche qua utile oltre le stime a 2 miliardi di franchi, mentre gli analisti si attendevano un profitto di 1,1 miliardi, insomma quasi doppio rispetto alle attese degli analisti. C'era stata invece una perdita di 1,4 miliardi di franchi nello stesso periodo dello scorso anno. C'è anche sulle banche una ricerca di Accenture che dice che quasi la metà delle principali banche retail ha registrato una contrazione media della redditività dei clienti, compresa tra il 5 e il 15%. Interessante anche il giudizio dei clienti. Il 59% degli intervistati ha evidenziato una diminuzione della fedeltà dei clienti dall'inizio della crisi finanziaria, mentre il 63% ha registrato una maggiore attenzione ai prezzi. Un altro 63% ha dichiarato che i clienti si rivolgono più frequentemente ad altri istituti. Nuova asta per le obbligazioni di Stato spagnole. Oggi il Tesoro spagnolo ha collocato sul mercato 3,42 miliardi di euro in buoni a 3 e 6 mesi, pagando un interesse minore rispetto alla precedente asta del 22 giugno nel primo appuntamento successivo alla pubblicazione dei test di resistenza delle banche. La richiesta ha superato di 2,2 volte l'offerta per i bond a 6 mesi. In crescita invece i rendimenti per quelli italiani. Il Tesoro ha collocato 9 miliardi di euro di bot semestrali con un rendimento medio ponderato all'1,035%, in crescita rispetto all'asta precedente più 0,055. Buona la domanda, quasi doppia rispetto all'offerta. Siamo sull'Italia e veniamo alla manovra. Ai parlamentari un taglio netto di 1.000 euro al mese. Il taglio sulla retribuzione dei deputati è deciso dall'ufficio di presidenza della Camera sulla base delle indicazioni della manovra economica. Il taglio inciderà per 500 euro sulla diaria di soggiorno, che oggi ammonta a 4.000 euro, poco più, e per i restanti 500 sulla somma destinata al rapporto eletto-elettore, che sono quei famosi 4.190 euro, destinati anche ai cosiddetti portaborse. Interviene sulla manovra, è intervenuto poco fa anche il ministro degli esteri Franco Frattini. Come sapete c'è la conferenza degli ambasciatori in corso a Roma, la Farnesina deve certamente dare e darà un contributo, dice Frattini, al risanamento, ma non può essere privata di risorse indispensabili a consolidare l'Italia nel mondo. E siamo alla questione Fiat. Dunque, è nata Fabbrica Italia Pomigliano. La società è stata iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Torino il 19 luglio. È controllata al 100% da Fiat Partecipazioni, ha un capitale di 50.000 euro e il presidente è Sergio Marchionne. La notizia, come si diceva, è stata anticipata da Radio Corri Il Sole 24 Ore ed è in sostanza la società che dovrebbe poi riassorbire i lavoratori di Pomigliano. La Fiat stessa ha convocato i sindacati metalmeccanici giovedì all'Unione Industriale di Torino alle 9:30. L'ordine del giorno, secondo i sindacati, come già vi diceva il giornale radio, dovrebbe essere la comunicazione della disdetta degli accordi vigenti e probabilmente del contratto nazionale di lavoro. Si parlerà anche di Pomigliano con i sindacati che hanno firmato l'intesa del 15 giugno, non firmata dalla FIOM. Questo è il quadro, poi su Fiat vi daremo maggiori ulteriori dettagli più avanti, ne parleremo nella parte finale del programma. Sempre dall'Italia, i prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori nel primo trimestre del 2010 hanno registrato un ribasso del 6,2% sullo stesso periodo 2009 e dell'1,5% rispetto al trimestre precedente. Questo è quello che comunica l'Istat, l'interpretazione del responsabile economico di Coldiretti, Lorenzo Bazzana. Il ragionamento che noi stiamo facendo è un ragionamento su domanda e offerta, nel senso che per alcuni di questi prodotti c'è un eccesso di offerta che probabilmente è alimentato da un eccesso di importazioni che molto spesso sfociano in quello che può essere, diciamo così, un camuffamento di Made in Italy, ovvero sia troppo spesso abbiamo dei prodotti e delle materie prime che vengono utilizzate e vengono poi vendute come made in Italy, che made in Italy non sono, e ovviamente queste trascinano verso il basso le quotazioni di quello che invece è il vero made in Italy. È chiaro che poi, per quello che riguarda le decisioni sul livello dei prezzi, le decisioni sul livello dei prezzi vengono poi appunto forzate da quello che è la situazione di mercato. Quindi non è che si decida di vendere a un prezzo più basso, a quel punto lì si è obbligati a vendere a un prezzo più basso. E il cambio di base ci segnala che stiamo cambiando argomento e passiamo dalle nostre notizie in breve ad affrontare il primo argomento di giornata. Più avanti andremo alla grande industria, quindi a Fiat. Adesso ci occupiamo di piccole imprese. Ci sono dei dati interessanti diffusi oggi da Unioncamere sul secondo trimestre 2010 in Lombardia per il settore industria e artigianato. Si parla di un fatturato in crescita dell'8% su base annua e ordini che restano elevati. E proprio di piccole e medie imprese lombarde parliamo adesso. Di occupazione, di difficoltà dell'accesso al credito si è occupata Artigiana 2010, un'iniziativa promossa dalla Regione, da Unioncamere Lombardia, con la partecipazione delle associazioni di categoria dell'artigianato lombardo e il supporto delle Camere di Commercio. Sono stati 10 appuntamenti per riflettere su 3 grandi temi: innovazione, aggregazione e sviluppo di reti d'impresa, credito e finanza. A settembre poi verrà presentato il manifesto di Artigiana 2010. Ne parliamo con Andrea Gibelli, vicepresidente della Regione Lombardia, esponente della Lega. Buonasera Gibelli. Buonasera a voi. E con l'onorevole Raffaello Vignali del PDL. Buonasera Vignali. Buonasera. Io partirei proprio con lei, Vignali, andando su un tema che si ricollega anche ad Artigiana ed è la sua meritoria iniziativa, una delle poche iniziative bipartisan di questa legislatura. Vorremmo sapere che fine ha fatto lo statuto delle imprese, insomma un suo progetto di legge del quale ci aspettavamo il varo e non sappiamo dove è andato. Di iniziative bipartisan non c'è solo questa, ce ne sono anche altre. La nostra commissione, fino a poco tempo fa presieduta dall'amico Andrea Gibelli, ad esempio ha varato un'importantissima legge sul Made in Italy, passato all'unanimità. 2 settimane fa abbiamo votato all'unanimità una commissione di inchiesta sulla contraffazione e il commercio illegale. Per quanto riguarda lo statuto delle imprese, mercoledì prossimo c'è la scadenza degli emendamenti in commissione. Contiamo di chiudere il lavoro in commissione tra la fine di luglio e i primissimi di settembre per poter andare in aula, dove andrà, e dentro l'anno, come peraltro promesso anche il presidente Berlusconi all'assemblea di Confartigianato, sarà legge, quindi non è assolutamente sparita. Abbiamo fatto un lavoro di ascolto reale del sistema produttivo, a cominciare dalle associazioni collegate a Rete Impresa Italia, ma anche Confindustria, Unioncamere, gli enti locali, le università, tenendo conto delle loro osservazioni per la redazione definitiva del testo. Testo che prevede alcune cose interessanti, le accenniamo per sommi capi perché poi verremo appunto ai temi di Artigiana 2010 che sono collegati, insomma, perché è tutto incentrato sul cosiddetto Small Business Act, ossia la comunicazione della Commissione Europea adottata il 25 giugno 2008, che si ispira all'idea guida pensare anzitutto al piccolo, quindi appunto piccole e medie imprese. Imposizione massima sull'impresa al 45% degli utili, differenziazione della tassazione sugli utili con maggiori vantaggi per i guadagni che vengono reinvestiti, impossibilità per lo Stato, e questo è un altro tema caldo, di pretendere versamenti se è debitore di un'azienda. Allora, con Gibelli innanzitutto, io vorrei capire da questo ciclo di incontri che cosa le è sembrato di ricavare sul fronte delle esigenze delle piccole e medie. In questi primi 3 mesi ho raccolto attraverso Artigiana un salto, diciamo, culturale delle micro, piccole e medie imprese decisivo. La crisi ha fatto male all'impresa, una crisi che abbiamo subito su un'idea di economia fatta sostanzialmente sulla finanza. Invece la cultura di impresa, soprattutto delle imprese del nord, della regione Lombardia in particolare, costruita da micro, piccole e medie imprese, hanno salvato il paese non cedendo alle chimere dei guadagni facili, ma pensando che ogni volta che un imprenditore chiudesse i cancelli della propria azienda, se non aveva prodotto qualcosa c'era qualcosa che non andava. Ecco, questa idea ha riportato il paese ad essere considerato come il secondo paese più produttivo d'Europa, e di questa cosa non se ne parlava più da anni, di considerare la regione Lombardia la 29ª economia del mondo, fatta soprattutto da quel tessuto a cui lo Small Business Act si riferisce. Cosa ho colto? La volontà di fare sistema, intermici, aggregazione di impresa, non attraverso la somma algebrica del piccolo cannibalizzato dal grande, ma con forme aggregate che rappresentano per Regione Lombardia una sfida nei prossimi 5 anni, cioè quello delle cosiddette reti di imprese. Il fatto di orientare la possibilità che tanti piccoli possano mettersi insieme per migliorare internamente e sul piano dell'internazionalizzazione delle proprie performance è sicuramente una sfida da vincere. E questo Gibelli mi sembra il vero salto culturale. Detto ciò, per favorire le reti d'impresa probabilmente ci vuole anche qualche soldo, naturalmente, probabilmente qualche fondo regionale. Come la mettiamo con i tagli? Allora, questa è una domanda, mi permetta la battuta, da 700 milioni di euro, che è la cifra che interviene sulle previsioni che abbiamo orientato su quanto prevedono il mancato trasferimento. I tagli vanno contestualizzati all'attuazione del federalismo fiscale relativamente alle regioni. L'attuale manovra prevede il fatto che i trasferimenti a qualsiasi titolo vengono ridotti, ad esempio per Regione Lombardia attorno ai 700 milioni, vuol dire che la base di spalmatura dei tagli potrebbe essere addirittura più ampia di quella che le polemiche di questi mesi hanno individuato con le ex Bassanini, ma contestualizzate a come verrà costruito il provvedimento relativo al federalismo fiscale. Questo cosa vuol dire? Che se noi riusciremo attraverso quel provvedimento di riprogrammare l'azione di Regione Lombardia avendo le risorse finanziarie necessarie, non più da finanza derivata ma come compartecipazione al gettito fiscale, potremmo comunque continuare ad orientare in ricerca, innovazione e sviluppo e soprattutto in reti di impresa le risorse per poter continuare a garantire alle nostre imprese di rimanere sui mercati. Bene, l'ultima domanda invece è per Vignali e la viriamo sul credito. Insomma, il 15 luglio scorso, una decina di giorni fa, il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha nuovamente esortato le banche ad essere più vicine alle piccole e medie imprese. In questo senso c'è stata in parte un'azione del governo, l'impressione che però non si sia risolto molto su questo fronte, Vignali. Il problema è serio, devo dire che se c'è una cosa che non è imputabile a questo governo, in particolare al presidente Berlusconi e al ministro Tremonti, è di non essersi impegnati su questo fronte, perché hanno fatto veramente di tutto e di più in questi 2 anni. Di tutto e di più, ma non basta perché, come ha detto giustamente Draghi, non basta avere le leggi che abbiamo, bisogna anche farle rispettare. Io credo che da una parte sicuramente la stessa Banca Italia possa e debba far di più quando fa le verifiche sulle banche per spingere nella direzione che lo stesso Draghi auspica. Nello stesso tempo, nel nuovo testo dello Statuto delle Imprese, fra l'altro, abbiamo inserito anche una norma che estende i poteri dell'antitrust al rapporto tra banche e imprese, per evitare quello che spesso succede, appunto, che si possa configurare un abuso da posizione dominante relativa. E questo credo sia un aspetto importante, una richiesta dello stesso antitrust. Su questo c'è da fare tanto, perché uno dei principali problemi oggi è la liquidità. Allo stesso tempo bisogna stare attenti che Basilea 3 poi non comporti un ulteriore restringimento del credito. Per tornare anche però al tema sul discorso che si fa adesso, importante, sulle reti di impresa, segnalo anche che ci sono alcune banche che stanno lavorando per creare dei rating per le reti di impresa, quindi sostanzialmente considerando le reti di impresa come un plus nel merito di credito, ed è in effetti così, perché la rete non è soltanto un importante strumento di innovazione, di internazionalizzazione, di acquisto delle materie prime, insomma di crescita, ma è anche un'importante rete protettiva nei momenti di difficoltà. Io credo che se noi andiamo a vedere delle imprese in rete, in questi due anni non è morta nessuna, e di queste nessuna ha licenziato, perché evidentemente funziona anche da tessuto elastico che regge nei momenti di crisi. Bene, grazie dunque all'onorevole Raffaello Vignali del PDL per essere stato con noi, buonasera. Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie anche ad Andrea Gibelli, vicepresidente della Regione Lombardia. Buonasera Gibelli. Grazie a voi. Questo è il quadro dunque per quel che riguarda le piccole e medie imprese, soprattutto nella Lombardia. Qualche spunto interessante c'è, come avete sentito, in particolare per quel che riguarda l'effetto che hanno le reti di impresa sulla tenuta delle imprese stesse e anche sul merito di credito che concedono le banche alle imprese che fanno parte di una rete. Tra poco, subito dopo la pausa, parliamo di mercati. Le 17:32 minuti, 16 secondi, è il momento della borsa. La giornata, come si diceva, è positiva. Il FTSE MIB chiude con un rialzo dell'1,62%, il FTSE All Share dell'1,44%. È abbastanza debole l'America in questo momento, il Dow Jones cede lo 0,10%, e non così bene, non come Milano, hanno fatto le altre piazze finanziarie europee. Francoforte un guadagno dello 0,15%, Parigi dello 0,8%. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Occhi puntati ancora una volta sulle banche, insomma, perché ci sono i risultati di Deutsche e UBS che abbiamo dato poco fa, ma c'è anche la questione di Basilea 3. Sì, c'è stato questo incontro di ieri sera in cui finalmente si è trovato un accordo sulla cosiddetta Basilea 3, insomma, un modo come un altro per ammorbidire le richieste sui requisiti di patrimonializzazione delle banche, quindi sulla definizione di capitale, sulla leva finanziaria, sul rischio di controparte. Per farla molto breve, in base alle norme di Basilea 2, le banche avrebbero dovuto, diciamo, ricapitalizzarsi in tutta Europa per 4.000 miliardi. In base a quanto deciso ieri sera, non bisognerà più fare tutto questo, quindi logico che la borsa premi questo scenario. Bene, in questo scenario è stata molto premiata Unicredit, un più 5,62%, forse anche un micro rimbalzino, Ceo, perché non ha festeggiato molto ieri i risultati degli stress test. Sì, sì, poi Unicredit era tra gli analisti, diciamo, era indicata come quella tra, come l'inglese Lloyd's, la svizzera UBS, tra quelle che è più avvantaggiata dalla definizione più ampia di capitale Tier 1 che è emersa ieri sera da questo incontro tra i governatori. Quindi era anche logico, stando agli operatori di borsa, che si avvantaggiasse più di altre di questa nuova Basilea 3. Allora, bene a seguire, bene Azimut, un più 5%, altri bancari, la Popolare di Milano più 4,80%, Intesa San Paolo più 4%, UbiBanca più 2,92%, il Monte dei Paschi più 2,20%, il Banco Popolare più 1,93%, insomma, quindi tutto bene su questo fronte. Mentre invece, passando dall'altro lato del listino, abbiamo un Ansaldo che lascia sul terreno un 8,26%. Oggi ci sono stati i conti. Sì, qui un utile netto che è calato del 10%, più che altro più dell'utile, qui conta l'abbassamento della forchetta dei nuovi ordini previsti per il 2010, che è passata da 1,75 miliardi a 1,75 miliardi, il che magari può sembrare quasi insignificante, però per gli operatori di borsa questi flussi di cassa sono molto importanti per valutare un equilibrio finanziario di una società, dal momento che poi lo stesso management di Ansaldo ha sottolineato alcune difficoltà commerciali e operative nell'area Asia-Pacifico, insomma è logico che ci sia stato questo crollo di borsa. borsa, perché tale si può chiamare. Sì, alcune commesse, dice l'amministratore delegato Sergio De Luca, che potrebbero slittare al 2011. Calma, tra poco arriveremo anche a Saipem. Altri conti di oggi: Mediolanum, utile del semestre scende a 85 milioni, ma cresce la raccolta, l'utile netto è sceso del 21%, ma cresce la raccolta. Snam Rete Gas, utile nei sei mesi più 133,8%, a conto del dividendo 9 centesimi. Buoni risultati di Saipem, CEO, però non mi sembra che il mercato abbia festeggiato un granché. No, il mercato qui più che altro forse aveva già festeggiato nelle scorse settimane, perché da inizio luglio Saipem aveva guadagnato l'11% guardando le quotazioni, quindi si potrebbe trattare del classico caso in cui si è scommesso su dei risultati positivi e poi al momento che, insomma, che lo scenario si è avverato, gli operatori hanno subito realizzato i guadagni fondamentalmente. Comunque un più 0,55% per Saipem, Mediolanum, della quale si diceva un guadagno dell'1,5%. 94%, Snam Rete Gas in calo dello 0,84%. Altre storie di oggi: Luxottica, un calo del 2,43%, anche qua no, si erano scontati i risultati positivi, aveva corso molto nelle ultime settimane. Sì, Luxottica era andata molto bene, anche qui stiamo parlando di un rialzo da fine giugno del 10%. Poi è stato un titolo comunque ben comprato in tutto il 2010, quindi ci sta qualche realizzo all'indomani dei risultati che comunque sono tra i migliori della storia della società. Cementir, un guadagno del 6%, nonostante una semestrale non proprio brillantissima. Qui invece siamo proprio nel caso opposto, è arrivata e conta molto la promozione di una casa di investimento prestigiosa come Banca Leonardo. Così Cementir oggi è arrivata addirittura a guadagnare il 10%, il gruppo, diciamo, di costruzione della famiglia Caltagirone ha comunque chiuso con un rialzo importante. A2A in calo, che cosa è successo? Ma A2A, insomma, sono parecchi mesi che oscilla poco sopra quota 1 euro, è poco brillante in borsa. Ieri si è aggiunto anche questo incontro, questa un po' questa resa dei conti tra i grandi soci, il Comune di Milano e il Comune di Brescia, i manager, in particolare il presidente Giuliano Zuccoli, che vorrebbe uno sviluppo della società nel nucleare, una soluzione più aggressiva su Edison. I sindaci invece di Milano e di Brescia l'hanno richiamato all'ordine, gli hanno chiesto una concentrarsi sulla territorialità, un calo del debito. È chiaro che gli operatori di borsa possono anche penalizzare un piano di investimenti meno ambizioso della società, e tale è avvenuto oggi. Bene, questo il quadro di giornata, mi sembra che abbiamo detto più o meno quasi tutto, adesso andremo a darvi il dettaglio degli altri titoli. Ringrazio nel frattempo CEO Condina di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Ah, prima di ringraziarti e di salutarti, CEO, Fiat in una giornata come oggi. Fiat, c'è grande attesa per l'incontro di domani tra sindacati, governo e l'azienda. Poi peraltro oggi è arrivata anche la notizia anticipata dal Sole 24 Ore Radio Cora, dall'agenzia di stampa, sulla creazione della Nuco, nuova fabbrica italiana a Pomigliano, da cui partirà il nuovo piano di Marchionne per l'Italia. A guardare la borsa, meno 1,26%, gli operatori più che altro scontano il grande nervosismo, comunque per una situazione molto tesa per l'industria italiana e per la stessa. Sì, poi anche là le cose erano andate parecchio bene nelle scorse settimane, no? Dopo la diffusione dei conti. Quindi... Sì, Fiat aveva riavvicinato 10 euro. Quindi. Benissimo, grazie adesso davvero a CEO Condina di Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera. Buona serata. Allora, abbiamo citato parecchi titoli, vediamo che cosa ci siamo scordati. Fondiaria Sai, un guadagno del 4,39%, Mediobanca del 3,38%, Mediaset un più 2,22%, e poi Generali un punto e mezzo percentuale di guadagno, Unipol un 1,43%, Italcementi un più 1,18%. Bene che Telecom Italia un guadagno di poco più del 7%, così dello 0, sì, per carità, dello 0,7%, se no ne avremmo parlato con un caso di borsa sicuramente. Eni altrettanto, un guadagno dello 0,7%. Saipem mezzo punto percentuale si è detto, Enel più o meno altrettanto, in pregiro più 0,25%, Finmeccanica appena sopra la parità, A2A appena sotto, lo abbiamo detto. Pirelli in calo dello 0,46%, Parmalat dello 0,60%, CIR dello 0,76%, ST Microelectronics dello 0,79%, Terna dello 0,79% altrettanto, giù l'automatica dell'1,13%, di oltre un punto percentuale Exor, Tenaris e Atlantia, Bulgari dell'1,24%, Campari di un punto e mezzo, Autogrill dell'1,82%, Prismian del 2,08% e degli altri abbiamo detto. Euro che quota 1,2982 contro il dollaro. E cambiamo argomento adesso e passiamo a parlare di nucleare. È stato presentato questa mattina a Roma il Forum Nucleare Italiano, un'associazione no profit promossa da realtà del mondo industriale, accademico e sociale. Ne fanno parte tra gli altri Alstom Power, Ansaldo Nucleare, Areva, Confindustria, E.ON, EDF, Edison, Enel, Politecnico di Milano, Sapienza, Università di Roma, Terna, insomma ci sono un pochino tutti. I principali obiettivi: contribuire alla ripresa del dibattito pubblico sullo sviluppo dell'energia nucleare in Italia, favorire la conoscenza dell'opzione nucleare, rappresentare un centro di divulgazione di un'informazione tecnico-scientifica. Il presidente Chicco Testa. Sentiamo innanzitutto un diretto protagonista dal punto di vista aziendale, naturalmente, perché nelle sue mani, o meglio nelle mani dell'Enel, metà di questo nuovo programma nucleare italiano, sia l'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti. È un'iniziativa molto positiva, fa uscire il tema del nucleare dal dibattito politico, ideologico, lo porta sul piano tecnico-scientifico, economico-industriale, dove deve essere. Centrali di quarta generazione? Sono di terza generazione avanzata, la quarta generazione non esiste ancora e non possiamo aspettarla, quindi dobbiamo andare avanti. Il nucleare serve al rilancio del paese, a un sistema energetico più bilanciato e ad un costo inferiore dell'energia per tutti i cittadini. Noi ne proponiamo quattro gruppi, la metà del programma nucleare italiano. E sentiamo l'altro lato, quello governativo, sia il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia, che è quello che ha la delega all'energia, intervistato da Chiara Di Michele, sottolinea l'utilità del forum. Un forum che nasce con l'obiettivo di dare informazioni al di sopra delle parti e quindi con il coinvolgimento di tutti gli operatori è un patrimonio prezioso per l'opinione pubblica e per ridare all'Italia una fonte energetica fondamentale per le future generazioni. Il nucleare secondo voi può giocare un ruolo importante fino a che punto? Noi pensiamo di poter arrivare almeno ad una quota del 20% della nostra energia elettrica prodotta in Italia da fonte nucleare. Naturalmente l'obiettivo al 2030 è un obiettivo raggiungibile secondo i migliori standard internazionali, perché il nucleare è un'energia pulita e sicura. Entro marzo 2013 si porteranno a compimento gli adempimenti legislativi, aggiunge Saglia, per iniziare il 2014 con la realizzazione dei primi impianti. Altro fronte, quello del quale si è discusso un po' sui giornali nell'ultimo periodo, non sappiamo se lo avete seguito, ossia la possibile designazione di Umberto Veronesi alla guida dell'Agenzia per la sicurezza sul nucleare. Interviene su questo tema il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, dice: in Italia non si è discusso di nucleare, ma si sono fatte solo crociate retoriche. E così invece su Veronesi. Sull'Agenzia per la sicurezza nucleare, io credo che una scelta bipartisan nella direzione di una figura autorevole, di indiscutibile esperienza, sia una scelta corretta. Con amarezza ho visto da parte del PD reazioni scomposte. Questo è il segno che spesso le scelte bipartisan vengono solo invocate per mettere in difficoltà il governo. Poi di fronte a forse la prima vera scelta bipartisan che si profila in questa legislatura su un tema concreto che interessa i cittadini e il paese, perché il nucleare impegna il paese per i prossimi decenni, le reazioni non sono state quelle che personalmente mi aspettavo. Questa dunque il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, che sia necessaria una scelta bipartisan. Sul fatto che sia necessaria una scelta bipartisan è d'accordo anche il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini. È chiaro che è un'operazione complessa, però quando parlo di accordo bipartisan, io parlo anche di temi come il nucleare. Noi non possiamo oggi tornare sulla strada del nucleare, cosa che è inevitabile assieme alle energie alternative e le altre grandi questioni aperte, se non c'è un accordo di sistema. Pensate a cosa potrebbe capitare in Italia se tra 10 anni, dopo aver ricominciato la strada del nucleare, ci fosse una maggioranza che smentisce questa ipotesi. Sarebbe un dramma finanziario enorme. Allora, sul tema del nucleare c'è la necessità di un'intesa ragionevole tra chi oggi governa e chi sta all'opposizione per stabilire un percorso che è fondamentale. Il nucleare di nuova generazione è in condizione di garantire ai cittadini di produrre energia pulita, noi lo abbiamo detto in campagna elettorale, e tra tutte le scelte che ha fatto questo governo, il tema del nucleare, fin dall'inizio abbiamo detto che eravamo d'accordo. Questa è anche dunque l'opinione di Pier Ferdinando Casini. Sappiamo che la questione del nucleare scalda gli animi, arriva già qualche sms al 349-238-6666. Non è questo al momento, o almeno non oggi, il luogo del dibattito, e quindi insomma ci siamo limitati a far ascoltare qualche opinione. La viabilità, dopo parliamo di Fiat. Le 17:47 minuti, 46 secondi, siamo dunque alle vicende dei Fiat. Domani a Torino l'incontro tra azienda, sindacati e il ministro del lavoro Sacconi sul progetto Fabbrica Italia e il futuro degli stabilimenti italiani del Lingotto, in particolare naturalmente Mirafiori. Saranno presenti anche il presidente della regione del Piemonte Cota e il sindaco di Torino Chiamparino. Giovedì invece, come avete già sentito nel giornale radio, Fiat ha convocato per le 9:30 i sindacati. Dicono i sindacati che probabilmente sarà per la disdetta del contratto nazionale, insomma, perché evidentemente l'azienda ritiene di aver bisogno di deroghe molto forti. Oggi intanto Fiat ha annunciato, ve lo dicevamo prima, lo ha appreso Radio Corre, il Sole 24 Ore per prima, la nascita di Fabbrica Italiana Pomigliano, la New Con, nella quale verranno riassunti con il nuovo contratto i 5.000 dipendenti dello stabilimento italiano. La disdetta del contratto, questo è un altro dato interessante, è stato diffuso oggi, interesserebbe 25.000 dipendenti. C'è anche qualche dichiarazione. Il ministro del welfare Maurizio Sacconi dice: la posta è più alta, bisogna puntare all'interesse del paese. E poi sul futuro di Pomigliano, no a scelte unilaterali. Saluto il professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera a lei. Allora, consentiteci di aprire un pochino di più l'obiettivo e di cercare col professor De Aglio, se possibile, di dare un'idea grandangolare della situazione. Avremo tempo nei prossimi giorni sicuramente di seguire la cronaca in maniera molto più stretta con gli incontri che ci saranno. Lei ha scritto due giorni fa nella Stampa, sulla Stampa appunto, quello che abbiamo, a nostro modesto parere, giudicato un bel commento, una bella analisi, dal titolo "Purché questo tavolo non sia un tavolino". Insomma, l'idea è che in questo tavolo ci sia in gioco qualcosa di più della sola Fiat o del solo fatto di quale macchina vada in quale stabilimento. Che cosa è in gioco secondo lei, professore? Secondo me è in gioco la posizione del sistema industriale italiano nel mondo nei prossimi 15-20 anni. Cioè, non possiamo sempre pensare di frazionare i problemi e di dimenticare che c'è un tutto dietro questo frazionamento. Il tutto è un forte cambiamento del quadro mondiale, in cui abbiamo della gente in altre parti del mondo che sa fare quasi le stesse cose, quasi bene come noi, che si accontenta di guadagnare molto poco, anche se questo guadagno sta crescendo fortemente, e che quindi ci porta via i mercati, ci porta via il lavoro, eccetera. Si tratta del tipo di risposta che si può dare a livello di paese e più ancora a livello di Europa a questo cambiamento. E il tipo di risposta risiede, secondo lei, in quel modello contrattuale che la Fiat intende adottare per Pomigliano, in sostanza? Ma questo è sicuramente una parte, tra l'altro non è una novità in Europa, il sindacato tedesco dei metalmeccanici ha concordato, se non sbaglio nel mese di aprile o di marzo, non ricordo più, un grosso patto con gli imprenditori in cui rinuncia a rivalutazioni salariali e accetta flessibilità di salario in cambio del mantenimento dei posti di lavoro. Credo che la necessità, intanto una rivendicazione di maggior tempo libero, che è stata una delle grosse e importanti rivendicazioni negli anni 70, 80, ancora 90, si è ormai tramontata. Quindi non è che si voglia più tempo libero perché gli stipendi sono relativamente diminuiti rispetto ai beni che si possono comprare, quindi nel tempo libero non si sa bene cosa fare. Si tratta invece di capire se è possibile salvaguardare i livelli di vita attuali e soprattutto, secondo me, andare oltre la logica del posto di lavoro singolo, guardare al lavoro nel suo complesso e degli operai guardare ai lavoratori nel loro complesso, quindi anche fortemente gli impiegati non solo dell'industria ma anche del terziario, e non solo gli operai attuali ma i giovani che in questo mondo del lavoro hanno difficoltà a entrare. Professore, i critici, che non sono solamente nella FIOM, dicono, insomma, non è che si rischia di mettere in atto una rincorsa che non finisce mai, insomma, questo è sempre l'opinione dei critici, come dire, si abbassa in parte il livello dei diritti, ma poi è una sorta di rincorsa al dumping sociale, per cui comunque fra 10 anni sarà sempre più conveniente produrre in un altro paese. Intanto questa è una cosa che dobbiamo guardare molto seriamente, perché i dati oggettivi vanno in quella direzione e dobbiamo chiederci che cosa si può fare per evitarlo. E allora probabilmente da un lato dobbiamo fare qualche cos'altro, quindi avere specializzazioni di alto livello che gli altri paesi non sanno fare, quindi fare noi una rincorsa tecnologica in avanti, no? Cioè cercare di staccarsi dai nostri competitori da un punto di vista tecnologico. Dall'altra parte va chiaramente messa sul tavolo in maniera pacata un'ipotesi di un moderato protezionismo, cioè non l'ha ordinato il medico, che noi dobbiamo seguire il mercato fino in fondo. Non credo che converrebbe a nessuno tornare ai protezionismi duri degli anni 30, però che su certe cose, certe particolarità locali vengano difese, ci possa essere un po' di preferenza per prodotti locali, questo mi sembrerebbe ragionevole, magari con dei termini, ma dei termini comunque molto lunghi. Ok, e questo per quanto riguarda, diciamo, questa, come dire, la possibilità di mantenere questo tipo di industria pesante. Ecco, professore, io so che non è, come dire, esattamente la sua specializzazione, nel senso, lei è un docente di economia internazionale ed è proprio, diciamo, con questa apertura, no, verso l'estero, che ha scritto questo editoriale sulla Stampa del quale abbiamo parlato. Però le vorrei chiedere un'opinione, visto che lei insegna a Torino, vive da una vita a Torino e quindi, diciamo, il rapporto con Fiat in genere è abbastanza stretto per chi vive e lavora in quella città. Questa ipotesi di disdetta del contratto nazionale di lavoro, lei come la giudica? La giudico come un segnale forte che la Fiat vuole un cambiamento. Cambiamento che ovviamente peggiora le posizioni dei lavoratori attuali rispetto a quelle di prima. Del resto credo che abbia poca scelta, perché se non fa questo cambiamento o va all'estero decisamente oppure si smette di fare le auto. Insomma, il mercato mondiale ha queste sue esigenze, chiamiamole così, ci sono i competitori che lavorano a meno e quindi è difficile operare, quindi un sentiero quasi obbligato, insomma, non credo che sia dovuto a una particolare malevolenza della Fiat, ma a un dato concreto. No, io vedo le cose in questo senso, si può vedere Torino, l'industria automobilistica e meccanica torinese, come una sorta di grande distretto dell'automobile, questo distretto come tale ha delle competenze che si trovano in pochi posti al mondo, quasi mai così vicine l'una all'altra, quindi qui fanno sistema. Bisogna capire se pur in presenza di un dimagrimento di produzione fisica delle auto è possibile non solo salvaguardare ma anche rilanciare un distretto automobilistico e vedere anche quali ricadute può avere fuori dell'auto. Cioè, in fondo dei sistemi che si studiano qui sono sistemi di locomozione, ma interessano tanti altri settori, che possono, tra l'altro a Torino c'è anche un aerospazio, eccetera, che dovrebbero essere dare un pochino il quadro della specializzazione produttiva della Torino del futuro. Bene, grazie dunque al professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa, per essere stato con noi. Buonasera professore. Buonasera a lei. Si chiude qui questa puntata di Focus Economia. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Una buona serata da Simone Spezia. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.